lascerò. Anche se so che è tanto bella la città, amo le mie pianure dove ci passa il fiume, amo la terra dove un dì sei nato tu, alberi immensi che sfiorate il cielo, dove l'amore di trama. Thank you.